So the teaching of metta in the by the Buddha really is, you could almost argue, it's almost as important as Vipassana. Quindi questi insegnamenti di metta dati dal Buddha si potrebbe dire che sono quasi tanto importanti quanto la Vipassana. Sometimes when you read the scriptures, the metta stands for all the qualities around love. A volte quando si leggono le scritture, la metta rappresenta tutte quelle qualità che in qualche modo riguardano l'amore. Which is compassion and sympathetic joy, things like that. E quindi comprende anche la compassione o la gioia compartecipe, cose di questo genere. Now, when we practice Vipassana, we develop this quality of equanimity. Quando pratichiamo la Vipassana, sviluppiamo la qualità dell'equanimità. The problem with equanimity is that it also has a subtle enemy. Il problema con l'equanimità è che a volte è accompagnato da un sottile nemico. It can corrupt into indifference. Perché può corrompersi, cioè, come dire, inquinarsi e diventare indifferenza. So the distance and the sense of non-involvement that we need when we practice Vipassana, if that's taken into daily life, we can be very distant from what is happening. Quindi questo senso di distanza, di distacco che sviluppiamo durante la nostra pratica, se la portiamo poi nella vita quotidiana, potrebbe anche lì risultare in una certa distanza o indifferenza. So at the end of any Vipassana practice, even if you only do 10 minutes or 15 minutes, it's good to end with just a little bit of metta. E quindi è buona abitudine dopo ogni seduta di Vipassana, che sia anche solo di 10 o 15 minuti, finire con qualche minuto di metta. There was a woman came and told me in an interview that after she practiced Vipassana, her husband complained that she was cold. C'è stata una signora, una meditante, che in un colloquio mi ha riferito che dopo aver praticato per diverso tempo la Vipassana, il marito si era lamentato che era diventata fredda. So I suggested that she re-engage with the psychophysical organism and with the world through the practice of loving kindness. E quindi io le ho consigliato di rimettersi in gioco, diciamo, con l'organismo psicofisico e con il mondo attraverso la pratica della gentilezza amorevole. I presume it worked because she never came back. Suppongo che abbia funzionato perché non è più tornata. So love of metta is the basic relationship that we ought to have with all sentient beings. Quindi metta o l'amore, la gentilezza amorevole, è la relazione che dovremmo sempre avere con tutti gli esseri senzienti. It's all the qualities you would expect of yourself as a good friend or of a good friend. Sono tutte le qualità che vi aspettereste da voi stessi come migliore amico o da un migliore amico. So now you can see, if we are somebody's friend and they fall into misfortune, we naturally want to help. Compassion arises naturally. Quindi vedete che se noi siamo il migliore amico di qualcuno e questa persona vive una situazione difficile, sfortunata, noi naturalmente vogliamo aiutarlo, proviamo compassione. And if our friend should have good fortune, then we're happy for them. E se questa persona invece ha un colpo di fortuna o gli succede qualcosa di bello, naturalmente noi siamo felici per lui o per lei. If they win the lottery, we're very happy for them and we don't expect them to give us anything. Se vincono la lotteria, siamo felici per loro e non ci aspettiamo che ci diano nulla. So this is how metta begins to develop into the other qualities, the other virtues. Ed è così che la metta comincia a svilupparsi nelle altre qualità, le altre virtù. Now again, this is just a habit, this is just a mental state. Qui, di nuovo, questa è solo un'abitudine, è solo uno stato mentale. And just as we develop all these negative states, like depression, by talking to ourselves in a depressive way. E proprio come noi sviluppiamo altri stati mentali negativi, come per esempio la depressione, e lo facciamo producendo pensieri negativi, depressivi verso noi stessi. So, to develop goodwill, we simply use the same technique through images and through blessings to develop this quality. Allo stesso modo, per sviluppare questa qualità della benevolenza o della gentilezza amorevole, usiamo la stessa tecnica, cioè creando delle immagini o offrendo delle benedizioni. And as we develop this mental state, it begins to express itself in the way we speak and the way we act. Man mano che sviluppiamo questo stato mentale, comincia a esprimersi attraverso le nostre parole o le nostre azioni. Now, one thing to really understand is that metta is not an emotion. Una cosa che è molto importante capire, però, è che la metta non è un'emozione. You don't have to feel loving in order to practice metta. Non è che dovete sentirvi amorevoli per poter praticare la metta. Because this is to do with the will. Perché questo ha a che vedere con la volontà. The will which is reinforcing a wise way of developing ourselves. È la volontà che rinforza un modo saggio di sviluppare noi stessi. So even though we ourselves might feel depressed, I can still raise these blessings towards others and to myself. Quindi anche se io mi sento depresso, posso comunque sviluppare queste qualità verso gli altri o verso me stessa. Now, of course, eventually the heart does respond. Prima o poi, comunque, il cuore risponde. And we can feel very beautiful feelings in the heart, very beautiful emotional states. E possiamo cominciare a sentire degli stati emotivi anche molto belli nel cuore. Then we can make the mistake of practicing metta in order to feel good. A questo punto potremmo commettere l'errore di praticare la metta per poter stare meglio. There are dangers all the way. Sono pericoli in tutto il percorso. So, as we do in the evening, we'll follow the same system. Quindi seguiremo lo stesso sistema, la stessa procedura che seguiamo la sera. As we go through every category, just repeat these blessings gently towards these various people. Quindi trascorreremo e menzioneremo tutte le varie categorie e man mano che li nominiamo, mentalmente esprimiamo queste quattro benedizioni alle persone che appartengono a questa categoria. So you can see this practice is very different from Vipassana. Vedete che questa pratica è molto diversa dalla Vipassana. Whereas in Vipassana we want to close down the thinking, imagining mind, here we use it in order to develop these qualities. Nella Vipassana noi cerchiamo di tagliare fuori, di chiudere la mente pensante o che immagina. Qui invece utilizziamo il pensiero e le immagini per creare queste qualità positive. And when we finished it, there's a little exercise on how to develop determination. Quando abbiamo finito questa pratica, faremo un piccolo esercizio su come sviluppare la determinazione. And then there's another way of practicing metta, which is just below the four blessings. Poi c'è un altro modo, un'altra modalità per praticare la metta. E ce l'avete sul vostro foglio appena sotto le quattro benedizioni. Ok. So, let's begin by bringing to mind people who've helped us in our lives, our benefactors. Cominciamo portando alla mente le persone che ci hanno aiutato nella nostra vita, i nostri benefattori. And just gently repeat these phrases towards the images in your mind. Quindi gentilmente ripetete queste benedizioni all'immagine che avete creato nella vostra mente. Mm. Allora, la prima, che voi possiate essere al sicuro, che voi possiate essere in buona salute, che voi possiate essere felici, che voi possiate vivere appagati e in pace con il mondo. Queste sono le quattro benedizioni. Bring to mind those who are near and dear to us. Adesso portiamo alla mente le persone vicine e care. Friends, people at work, whomever we wish. Gli amici, le persone al lavoro, o chiunque vogliamo. A neutral person. Una persona neutrale. Turning now that goodwill towards ourselves. Adesso rivolgiamo questa benevolenza verso noi stessi. Into the heart of goodwill, someone we find difficult. Portiamo nel cuore della benevolenza qualcuno che troviamo difficile, una persona difficile. and beginning to radiate outwards, first of all to each other. Poi cominciamo a irradiare la meta fuori di noi, innanzitutto gli uni verso gli altri. Relocating to where we live, our neighbors and neighborhood. Adesso trasferiamoci mentalmente al luogo in cui abitiamo, andiamo a mettere i nostri vicini al nostro quartiere. And from there, slowly radiating out to all the people in our country. Da lì, lentamente, irradiamo all'esterno a tutte le persone nel nostro paese, nella nostra nazione. There to all the peoples of Europe. E da lì a tutti i popoli dell'Europa. To all people on earth. A tutte le persone sulla terra. And finally, to all beings in all directions. Infine a tutti gli esseri in tutte le direzioni. And here we'll use these six directions: before, behind, left, right, below, and above. E qui utilizzeremo tutte e sei le direzioni, cioè davanti, dietro, sulla destra, sinistra, sopra e sotto. So here we're just sending out our goodwill into a sort of infinite space. E quindi qui è come se noi proiettassimo questo sentimento di benevolenza nello spazio infinito. Just filling it with warm, loving kindness. E lo riempiamo con questa gentilezza amorevole e calda. To all beings before us. A tutti gli esseri davanti a noi. All beings behind us. A tutti gli esseri dietro di noi. All beings to our left. Tutti gli esseri alla nostra sinistra. All beings to our right. Tutti gli esseri alla nostra destra. All beings below us. Tutti gli esseri sotto di noi. And to all beings above us. E tutti gli esseri sopra di noi. And finally, to all beings in all directions. E infine a tutti gli esseri in tutte le direzioni. now a small exercise to develop our will. Adesso un piccolo esercizio per sviluppare la nostra volontà, la forza di volontà. Our determination. La nostra determinazione. So there are four stages. Sono quattro fasi. First of all, I can, I am able to resist temptation to develop virtue. La prima è di dire a noi stessi, io posso, io sono in grado di resistere alle tentazioni e di sviluppare la virtù. Then we have to take personal responsibility. I ought to, for my own benefit and the benefit of others. Noi dobbiamo prenderci la nostra responsabilità e dire io dovrei farlo per il beneficio mio e degli altri. Then we have to, as it were, encourage the heart. Poi dobbiamo, in un certo senso, incoraggiare il cuore. I want to. Quindi diremo io lo voglio. And then finally, the act of will. I will resist temptation. I will develop this virtue. E alla fine un atto di volontà. Quindi diremo noi stessi, io resisterò alla tentazione, io svilupperò le virtù, io lo farò. So can, ought, want and will. Quindi le quattro parole sono io posso, dovrei, voglio e lo farò. So can we bring to mind a trait we see in ourselves which is not wholesome? Quindi portiamo alla mente un tratto dentro di noi, un tratto del nostro carattere, che noi pensiamo che non sia tanto salutare. And then just gently repeating to ourselves. E poi delicatamente, dolcemente ripetiamo a noi stessi. I can, want, I can, ought to, want and will resist that temptation. Io posso, io dovrei, io voglio e io lo farò di resistere a quella tentazione. In the same way we can develop a virtue. Allo stesso modo possiamo sviluppare una qualità, una virtù. Can we bring a virtue to mind we'd wish to develop more? Allora portiamo alla nostra mente una virtù che vorremmo sviluppare di più. I can, I ought to, want to and will develop this virtue. Io posso, io dovrei, io voglio e io lo farò di sviluppare questa virtù. This practice has greatest effect when you keep repeating it and you feel it being digested in the heart. Questa pratica ha un effetto maggiore quando continuate a ripeterla, quindi è come se la digeriste, è come se sentiste proprio l'effetto nel cuore. So to draw our practice to a close, we'll practice metta in this slightly different way. E quindi per concludere questa pratica reciteremo la metta però in un modo leggermente diverso. Oh, just repeating to ourselves. Quindi ripetiamo a noi stessi. May I be free of greed and selfishness. Che io possa essere libero dall'avidità e dall'egoismo. May I be free of anger and ill will. Possa essere libera dalla rabbia e dalla malevolenza. May I be free of fear and anxiety. Possa essere libera dalla paura e dall'ansia. May I be kind and gentle, sympathetic and benevolent. Possa essere gentile, kind and gentle. Gentile, delicata, comprensiva e compassionevole. May I be forgiving and compassionate. Possa essere indulgente e compassionevole. May I be joyful and rejoice in the success of others. Possa io essere gioiosa e gioire del successo degli altri. May I be peace-loving and calm. Possa essere amante della pace e calma.